Il punto di Stefano Folli. È sorprendente la tenacia con cui alcuni spiegano che è tutta colpa della Spagna. Il crollo della borsa ieri e la risalita dello spread dipende, dicono, dalla grave crisi politica a Madrid e stop. Certo, nel mondo di oggi tutto si tiene, a maggior ragione sui mercati finanziari, ma come si fa a non vedere che il problema di fondo è l'instabilità? E se in Spagna l'instabilità nasce dalle ombre sul primo ministro Rajoy, da noi è la conseguenza degli sviluppi della campagna elettorale, con il rischio, solo il rischio per fortuna, che l'Italia dopo il 24 febbraio si riveli ingovernabile. A dirlo sono testate come il Wall Street Journal e il Financial Times, e sarebbe bene rifletterci, anziché chiuderci in un provincialismo autoassolutorio che guarda a Madrid per non vedere quello che accade a Roma.